scena di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, anche oggi uno degli incontri con i grandi protagonisti della musica, del cinema, dei libri, della cultura, gli incontri di Voci in Scena. Da giorni dragano il fondale del fosso reale per omaggiare con un trofeo italiani. Luglio, agosto mi pare, gli occhi addosso alle pale cercano sculture di Amedeo Modigliani. Giorni passano interi, zero basso rilievi, poi vedi qualcosa viene su, alleluia. Tre teste incise su tre pietre, scatti dal tre piede la tribù esulta. Gli esperti dicono che sì, quelli lì sono di Memo di esporle qui nel museo di Amedeo. Oggi dillo ai TG, visitatori a fronte personalità. È nato a Molfetta nel 1973. Comincia a cantare da bambino, studia ragioneria anche se avrebbe voluto fare il fumettista. Dopo il diploma vince una borsa di studio per l'Accademia di Comunicazione di Milano, ma ben presto decide di dedicarsi a tempo pieno alla musica. Inizia la carriera come cantautore sotto il nome di Mickey Mix. Con questo pseudonimo partecipa al concorso Sanremo Giovani nel 1995-1996, quando si guadagna un posto al Festival 1997, nel quale propone E la notte se ne va. Pubblica il primo album La mia buona stella, poi cambia nome e cambia musica. Esplode nel 2003 con Fuori dal tunnel e Vengo dalla luna. Fino ad oggi pubblica 6 album, gli ultimi sono nel 2008 Le dimensioni del mio caos, nel 2011 Il sogno eretico con l'appendice live esecuzione pubblica e nel 2014 Museica. Lui è Michele Salvemini, cioè Caparezza. Un po' è l'album che non vedi l'ora di sentire, soprattutto tu che non vedi l'ora di dissentire, ma è anche l'album guida del tuo museo mentale. Sì, partiamo dal fatto che è un inno, un'ode all'immaginazione, che la cosa che salvo della mia esistenza, e quindi per forza di cose dovevo affrontare un argomento relativo all'immaginazione. Mi è sembrato pertinente affrontare quello del mondo dell'arte, perché un disco sull'immaginazione che si basasse sulla musica stessa sarebbe diventato autoreferenziale. Il mondo dell'arte lo conoscevo poco, mi stuzzicava l'idea di crescere a livello informativo attraverso lo studio da neofita del mondo dell'arte mentre componevo il disco, quindi si può dire che insomma ho anche studiato. Adesso tutti mi parlano, mi chiedono del mondo dell'arte e di vari pittori e riesco addirittura a dare qualche risposta, quindi sono contento. Senza dietilamide né mescalina, museo mentale è fatto di opere d'arte, è fatto di copertine di dischi, è fatto anche di tele da riempire, con, da un certo punto di vista con la tua creatività e da un altro punto di vista con quello che di te pensano gli altri. Ci sono tante domande che ti fai sotto questo punto di vista? Sì, perché sono un forte osservatore della realtà, non essendo mai riuscito a spiegarmela, anche se quando parlo di questi argomenti sembra un po' troppo filosofeggiante, ma tant'è, io non riesco a spiegarmi tutto questo, me, te, il mondo, non riesco a capirlo, lo accetto come un dato di fatto e vedo, cioè lo accetto perché non si può fare altrimenti, però lo contesto in un'altra maniera, cioè creandomi una realtà alternativa, e lo faccio, io personalmente lo faccio con la musica, molti pittori l'hanno fatto attraverso le opere, Van Gogh dava la sua visione della realtà attraverso le sue pennellate, E così fanno gli scrittori di romanzi, per esempio, perché quelle cose non esistono, quelle cose che scrivono che poi rientrano nell'immaginario collettivo. E questa formula mi porta ad amare tutto alla fine, perché l'immaginazione è permessa proprio perché esiste una realtà spietata dalla quale non si può fuggire. Detto questo, proprio perché viviamo di immaginazioni, molti giudizi sono in realtà dei pregiudizi di una cattiva, frutto di una cattiva immaginazione. Siamo tutti come tele, questo lo racconto dentro Fai da tela, che è il pezzo che tu citavi. Siamo delle tele bianche, ci sforziamo di essere noi stessi, ci sforziamo di credere che esistiamo come persone, che siamo particolari, e in realtà, per quanto facciamo degli sforzi in quella direzione, sono in realtà gli altri a determinare quello che siamo. Come nella copertina del disco, l'albero è centrale ed è osservato perché sono gli altri che determinano che sia osservato. Boh, sto parlando un po' troppo in maniera strana, però questo è... ti ascolterei per ore. Siamo lenti, serve un fotokit. Siamo scaricabarile senza prospettive. Donkey Kong, 8 bit. Servono accordi, chiamate Vladimir Horowitz. Prima che un pelato con il fest faccia un nuovo blitz. Qui il problema è la caduta, ragiona Cassel. Ci vorrebbe una vecchia canzone, tu suona la Sam. La Lambretta, la 500, la moda del surf. Ora aspetta, siamo in 500 e la coda del surf. Più rassegnati, più dubbiosi, più poveri, più anestetizzati di un paziente in recovery room. Nati col mito del boom, morti col BTP boom. Appizza le orecchie come Legolas Orlando Bloom. Rivoglio il ballo del mattone, mi giro mammina. C'è anche tanta realtà concreta. Riesce a fare la rima tra boom, che è quello degli anni 60, e BTP boom, che sono quelli di oggi. In quello che non ci possiamo permettere ci sono le pensioni dei senatori, ma anche semplicemente andare a cena fuori. Quindi ci sono anche ispirazioni nella realtà più concreta e anche economica che ci circonda. Sì, perché quelle sono appunto i barlumi reali che finiscono spiattellati, spennellati qua e là all'interno di queste tele che possiamo chiamare canzoni. E che da quello attingono, no? È come la realtà finisce sempre nell'immaginario irreale. Pensa quando, per esempio, immaginiamo un extraterrestre, no? Potremmo immaginarlo in qualsiasi forma, ma partiamo sempre dall'ominide, perché per noi deve avere le braccia, le gambe, la testa. Non riusciamo a immaginare qualcosa d'altro, di completamente diverso, proprio perché abbiamo l'imprinting della realtà su di noi, e quando immaginiamo ce lo dobbiamo portare dietro. Io mi porto dietro tutte queste considerazioni che sono reali, e le trasporto in un altro territorio. Quando ho ascoltato per la prima volta il disco e ho letto i testi, ho subito pensato che ci fossero molti riferimenti della nostra generazione, di noi nati, diciamo, nella prima metà degli anni 70, dal ricordo della beffa delle teste di Modigliani, sì, che è un ricordo nostro di infanzia, sì, perché era stato su tutti i telegiornali, ai cartoni animati giapponesi, alla passione per il fumetto, a un certo tipo di immaginario pop. C'è molto anche questo, e anche un po' di distanza invece con le generazioni successive, che in certi momenti tu guardi con, non dico con distacco, però insomma con un pochino di distanza, sì. Io le guardo e le frequento, per la posizione privilegiata in cui sono e suono. Molto spesso io mi rapporto con persone estremamente giovani che suonano, cantano, e parlo molto con quelle che vengono identificate come nuove generazioni. Non ci trovo tutto questo distacco. Il distacco è semplicemente nelle opportunità. Magari io, per arrivare, se parlo della musica, per arrivare a fare un demo dovevo faticare molto, perché non c'erano i computer con i sequencer, bisognava trovare lo studio di registrazione o comprarsi il Fostex, quello con la cassetta a 4 tracce. Insomma, era un po' diverso da questo punto di vista. Adesso è più veloce la fruizione di tutto, però penso che il famoso teen spirit sia ancora vivo, e io lo benedico, perché molti di noi, superata una certa età, finiscono di vivere. Fai ancora il tuffo nella piscina e trovi il dollaro. Io faccio ancora il tuffo nella piscina e trovo il dollaro, e mi piace sorprendermi, e le sorprese arrivano da chi ha 20 anni. Sono sempre loro in grado di sorprenderti, c'è poco da fare. una cosa, ti cito, troppo politica. Allora, sono contrario ai tagli alla cultura, hai detto, perché tutto ciò che è artistico è salvifico. Anche nella tua canzone dedicata ai figli d'arte, alla fine quello che viene fuori è che il problema del figlio d'arte è che il padre ha un rapporto talmente forte con l'arte che quello è il rapporto più forte che possa esistere. È una canzone controversa quella lì, è sicuramente, forse oggi ho visto, una delle più citate, perché probabilmente parla di un argomento in una maniera, di quell'argomento in una maniera bizzarra. Sì, è così. Chi ama l'immaginazione fatica ad accettare la realtà in tutti i sensi, fatica anche ad accettare la realtà delle proprie responsabilità ad assumersi. Vede tutto come un limite al suo realizzarsi nella passione. E non ci possiamo fare niente, non possiamo farci niente, cioè il tempo è solo uno, e quindi io molto cinicamente inquadro la situazione cercando di riflettere su quello che è l'arte e pensandola come meno banale delle, cioè questa frase che sicuramente susciterà anche un po' di malumore, però secondo me è davvero l'arte meno banale degli esseri viventi, perché è più scontata la vita. Noi sappiamo già che nasciamo, cresciamo e moriamo. Invece quando creiamo qualcosa, diamo sfogo a qualcosa che non è conoscibile subito, che non è inquadrabile, che sfugge a tutto, è diverso. Ciò non vuol dire che una cosa non possa convivere con l'altra, ma quando accade non è un problema mio, quindi per me è meglio che l'artista continui a fare l'artista. Ed è tutto per questo Voci in Scena oggi con Caparezza. L'appuntamento è per domani alla stessa ora.